quando modulo, infatti, però mi dicono che con questo ci sono radio migliori. Sì, quello lì è più professionale, quello che sto usando è più professionale, è molto meglio dei barattini di adesso. Già lo so che è molto più professionale questo, ma infatti penso che dovrei, come ho detto, fare anche girare gli altri, perché mi dicono sempre attacca quel baracchino che l'ambulazione è bella. Ti accontento, attacco allora il baracchino. Beh, la modulazione va bene, bella chiara, pulita. Lasci questo qui, così solo questo, e poi ogni tanto fai funzionare quelli là. Però il coso, durante la settimana usi questo qui, ti fai sentire meglio con questo. Ma infatti. Ma sta piovendo da quelle zone, Riccardi. Mi sa che qua sta calendo l'aria, È uguale, tanto, sì, è la stessa storia, c'è un tempo brutto, è un po' così, ancora non sta piovendo, è a momenti. Viene quando non te lo immagini. E meno male che al 20 siamo già a estate, mi sa che hanno sbagliato, invece dell'estate sta arrivando l'inverno. Meno male che domani fa una bellissima giornata tutto il giorno, solo sole. E così, ma andiamo al mare. Infatti domani non me ne sto in collassa alla radio, domani campeggio. Dove vai, Riccardi? Campeggio. Argentiera. Argentiera, dove c'è la fabbrica dove facevano l'argento? Tecnicamente non è l'argentiera, perché l'argentiera è un altro posto, è vicino, Porto Palmas. Ho capito. Quindi ti fa il campeggio lì? Sì, lì, perché si può anche andare in parapendio, lì non c'è nessuno che te lo vieta, ci sono anche buone condizioni di solito. Bene, bene, bene. C'è qualcuno che vuole entrare avanti? Non c'è nessuno. Oggi tutto silenzio. Rimango in ascolto, Riccardi. Da, sono qui, tanto che sto scartavestrando un pezzo di rosmetro che sarà arrugginito, vecchio, e lo devo riverniciare poi, intanto lo sto scartavestrando. Ok, dai, fai pure. A dopo. Tore! Attento, Tore! Attenta, Tore! Ricordi! Ricordi! Cosa? Emanuè, Ginko, chi sei? Figa, dimmi per Ricordi. Ma solo io o anche tu la senti un po' di propagation? Però basta, basta. No, negativo, io qua non sento niente. Capo, vabbè, tanto non è condizione perché tanto è proprio bassa, non riesco a parlarci neanche. E cosa stai facendo, Riccardi? Attenzione, 10, c'è qualcuno! Buonasera Claudio, ben sentito. Aspetta il telefono. Come detto, ben sentito, se te lo posso chiedere adesso che cosa stai usando, il 48? K, sì. Stavo guardando ieri il Summer Camp, quello che piace a te, quello con anche il frequenzimetro. L'ho trovato, c'è uno che lo sta vendendo a poco, però sembra strano, c'è quelli che li stanno vendendo a 600 euro e questo che lo vende a 250. Sì, mi sembra di sì, quello che è uguale al tuo, solo che sotto la scritta Summer Camp ha un frequenzimetro. E capa, speriamo in tempi migliori che riuscirei a prenderlo, perché mi piacerebbe che tu lo abbia, Sì, comunque ho visto che sono molto belli ed escono bene. Però va dopo, però a quanto ho capito se alzi poco poco la potenza al 48 stava andando male. Scappa, deve essere questo, i giocattoli della ZGT non valgono niente. Anche a me ha dato problemi questa linea ZG, infatti non ne sto più comprando, ho ancora due cosette, tipo il TM1000, ma non ho altro, solo accordatori, però penso di prendermi una cosa un pochino migliore. Scappa, sì, da uso bisogna comprare delle roba un po' migliore. Non ho niente contro la ZG, però c'è molto di migliore nel mondo dell'attrezzatura CB, questo è alla base. Io dirò smetterò ne ho diversi. E vorrei scrivertelo anche via messaggio perché non potrei dirlo qui. E comunque quelli che ho sono lo ZG HP1000, TM1000, sempre la ZG che tanto non valgono niente, neanche li uso, però uso dei rosmetri, non so se li conosci, uno Falcos. Cappa, chi è che voleva entrare che ti ha sovramudurato ma non ti ha neanche coperto, di poco? Io faccio la SDB. Il nome è Gianni, ciao Gianni. Ciao, buongiorno, buonasera a tutti, dal buon pomeriggio. Oh, mi sto svegliando adesso, ho fatto una dormita, oia. Bravo. Sì. Vani, non è chiara la radio. È un po' strana, cupa di mano. È copiato, Vani. Non si è uscito. Nada, non sei uscito. Niente, se sei tu Vanni non stai uscendo. Un attimino, dai, riprendi tu. Ciao, che l'ho ruggito, ben sentito. Riprendi tu, Giacomino. Dopo vengo subito, vado un attimo in bagno. Rimetto il cambio di nuovo per Muros. Ehi, c'è anche Emanuele, ciao Emanuele. Prima sei scomparso nell'etere. No, me l'ho sentato, comunque saluto una tutta la ruota, Vai Riccardi. Ehi, vero, tu non lo ascolti a Muros? Non lo so, chi è? Gianni? O Claudio, chi è? Claudio da Muros. Avanti Claudio, ma non mi sentirà perché c'è un'antenna sotto il letto. Claudio, non ascolti Emanuele. Sì, ciao Claudio, ben sentito, tu proprio terra a terra che tu, comunque dai, ben ascoltato. Rimango un attimo in quelle X che devo sistemare alcune cosette, vai tu Riccardi. Yada. Molti entrano e poi siamo rimasti solo io e Claudio, gli altri stanno ancora facendo roba, tanto siamo tutti orecchie di porco, non vogliono entrare. Avevo sentito chi era Emanuele che stava chiamando. Ma dove si trova a Muros Claudio? Ma che antenna sta usando? Un'antenna di macchina? Ok, dai, perfetto. Vai Riccardi, fai girare. Ma cosa hai messo? No. Anche qualche volta mi ripasso qualche vocabolo e mi guardo qualche cosa in studio per sapere un po' di cose a livello, come dire, radioamatoriale, ma per mi leggo qualche libro che aveva babbo. Ma non era, un'antenna hai messo? Dimmi già. Abbonato, l'antenna hai messo? No, perché? Io sto usando sempre quel radiale di matto, Ma perché ti ha detto a Muros, ti ha risposto, non capisco come fa a arrivare a Muros con un radiale di macchina, vuol dire se c'è qualche preparazione o non so. Tu mi ascolti? Sì, che ti ascolto. Ascolto bene. E sei sempre arrivato bene, anche all'inizio, perché siamo vicini. Ho l'antenna mia, e l'antenna mia ti riceve. Si vedono forse, là. La modulazione, Romeo. Ho già. È inutile dirlo, bellissima. Ok, dai. Rimango un attimo a corrersi, dai. Dopodiché prendo l'oppo, riprendo l'oppo, dai. Fai girare il ricavi. Ehi, Ada, già. Oh, come sta Tyson? Benissimo. È addormentato ancora. Il filo della vita sta bene. Sì, è rilassato al massimo in questa casa. Lui fa quello che faccio io. Se io riposo, lui viene e si addormenta vicino a me. Va. Ma sul letto oppure in cuccia? No, c'è una copertina sopra il copriletto. Gli ho messo una coperta su e lui si collega su quella coperta lì. Papà, mia sorella fa salire il cane sul letto, lo mette come te su una coperta. Io sono al primo piano, quindi non posso far salire nessuno. Ah, perché avete detto a castello? Purtroppo sì, vorrei avere una stanza tutta per me in cui posso avere tutte le mie radio per me senza che le tocchi né niente. Invece purtroppo siamo assieme. Che getta sorella. Ma che miei figli sono cresciuti tutti e due insieme, dai. Si rispettavano uno con l'altro, quando la sorella si doveva cambiare, lui usciva fuori e si cambiava e poi rientrava. Ci avevano rispetto l'uno dell'altro. Ma vanno molto d'accordo, miei figli, eh. Io e mia sorella non molto, dipende. No, devo stare attento che non si arrabbi perché mi potrebbe spacciare qualche radio. Rispettosa. Rispettosa, infatti è per quello che non ho una camera tutta per me, se no mi sarei chiuso a chiave e non entra più nessuno, lavoro in corso. No, così non è bello, Riccardi. Così è escludersi dal resto della famiglia, quello non va bene. È bello avere le sue passioni, una persona, però deve nello stesso tempo stare in famiglia, non può escludersi, non può mettersi da parte. Meno male che tu non usi molto il computer. Io non ci sto quasi mai al computer, poche volte lo uso quando faccio presentazioni devo scrivere qualcosa, ma comunque no, sono sempre, di solito quando sto a parlare con la radio c'è o mio padre o mia sorella, invece però adesso sono tutti addormentati, meno male, perché così non mi possono disturbare, perché mia sorella quando fa dispettine è già lì fa, l'ultima volta mi ha attaccato la corrente a tutte le radio mentre stavo parlando e lo fa diverse volte. Modellina, quanti anni c'ha tua sorella? Quasi 10, fra un po'. Già grandetta, non è che sia così piccola, pensavo più piccolina. No, a questa età però è rispettosa molto. Falla modulare anche a lei, così magari, forse non si sente inserita. Aveva anche scelto il nominativo, immaginati tu. E come si voleva far chiamare? Oh, che brava, Lady Oscar. Lady Oscar. Cappa, vabbè, dai, è simpaticissima, fa entrare ogni tanto. È giusto che anche lei usufruisca delle cose che ha comprato papà. Dai. Magari di prendere a passare anche a lì, solo che femminucce non ce ne sono qua, e prima già ce n'erano tante, ma adesso avanti, chiodo arrugginito. Prova, sì, di radio sì, non so di segnale. Di segnale e di radio non molto, la radio sempre è buona, però il segnale è aumentato. E quando ti arriva di segnale, Giacomi? Giacomi io sono, quindi prima mi arrivava un 5 e adesso è 7. Allora mi arriva 9 e 5 di segnale. Non va bene comunque. Oh, già, mica io uno smettere un po' a varo su questa radio. Adesso attacco il Cobra, vediamo un po' com'è sto col Cobra. Non ve lo faccio sentire spesso, il Cobra è molto da indisparte. Adesso lo uso un po' in questi giorni, perché so Giovanni, anche io dovrei far girare, mi sa che dopo attacco il valvolare. Oi, oi, oi. Che ci dà così? Ammazza! Mi abbrontolo! E beh, buffa tutti! Basta di dare la pedichella! È bella pure la cazzo, ancora ho detto che è bella! Ma che io, Vittorio, mi sono rimettato col televisore acceso sul divano! Allora ho finito di mangiare all'1:30, credo che ci dà da fare. 10 minuti fa. Io invece avevo il banco dei pugni su di Max e mi sono addormentato, adesso ho aspetto tutto. Il baracchino è acceso, al minimo. Ci dormi, ma l'antenna è piazzata, lo bazzo. Oi, tu, ben sentito, eh. Oh, me l'ha detto anche Gianni, no? Perché? Se c'è il forse, non ricattate io. Ti sto dicendo sempre lì l'antenna. Ma non ricattate che io quando abbassavo le preghiere arrivavi a zero, ma sentivo. E non c'è io a 4,5 Ti sto dicendo che non mi ho messo l'antenna, tu. Tu sei Pinocchio. Ho fatto. Mica è un passo, io voglio venirmi. Che passa? Indirimi che la cavoca è. È possibile. Ora si pure l'hai anche lasciata con il nome di dubbio. Però l'arco di antenna bazooka sembra le buste. Ti stiamo dicendo no, non è no. Ecco, ma allora sei a casa tua? Il gioco, in cantina il gioco. Sì, in cantina di Cimbogna, la massa delle varie. Oh, Sonino! Dimmi tutto perché... Ciao, ben ascoltato. Ti ricorda qualcosa? Mio figlio poteva morire. Sì, il banco dei pugni, a me infatti la storia di cosa non mi piace, è fea. Che cosa? Allora c'è Lecce, sono mai andato che il padre, poi c'è lo figliolo e la figliola. La figlia non mi piace infatti. Già l'ho visto, lo so. Comunque stanno ridando tutte le repliche che non hanno dato. Non sanno più cosa dare. Via. Baci con me. E tu di balle già le dici? No, non l'ho messa attorno l'antenna. Non l'ho messa. È quella lì, quella radiale della macchina che hai visto tu. Sì. Ma tu pensi che il secondo rimane? Taccio, Grimaldo, è il gioco più intelligente di te, fai da bravo, non è di palle. Come la torta ho sgamato che è di causa di quella persona. Non è vero, poi ti ho detto la verità. Allora poi lo sai che te lo dico. E allora se non sei a casa tua, due sono i cosi. Non sono a casa. Non sei a casa tua, oppure hai messo la testa. E vuoi entrare sotto. Vabbè, così che dopo passo. Io voglio entrare sotto, tu. Anche io. Avanti. Vecchia volpi, non le freghi. Cosa hai detto? Ma è Gianni con Cobra. Vedi non posso ingheggiare. Attenzione, carissimo. Se ascolti il doppio rullone che parla, Gambia. Avanti, doppio whisky. E allora, ragazzi, tutto bene? Lui ci pensa di tutti a me, compreso. Due sono le cose. O noi a casa sua, molto l'antenna, chi uscì non mi è mai arrivato. L'ho detto anch'io, mi sta arrivando quasi 9:30 a me. Ci penso sì l'occhio, Edo. Ci combi, sei Pinocchio. Avanti, ricordi. Viagra, non si prende, non si sniffa, capito? Se non ti cresce il naso, pure. Riccardo. Sono qui, Torino. Riprendi, ieri ho sentito tuo padre. Che bravo, davvero? E c'era che tu vicino. Sì, stai uscendo chiaro? Fammi dire un'opinione, secondo te, Torino, come sta uscendo adesso muro? Vieni avanti, chiodo smaltato. Sì. 9:10 e 9:05 è perfetta, lasciala così che sì, perfetto. Ok, un attimo, lasciatemi che attacco il valvolare. Fate bravi, staccate tutto che mi state disturbando la lavatrice. Io sono con l'omologato, Tony. Il Cobra è omologato questo. Ehi, già va bene lo stesso. Però Manuele è vederlo più. Manuele, te l'ho detto, ha rifatto il Viagra, gli è cresciuto il naso. Che chiama? esci che basta radio. Oh me pio pio. No. C'è tutta distorta. Sembri più di frequenza, Vanni, no? Sei centrato. Che se ne frega se lo chiami in M? Non so che dirti, non esci, non sta uscendo bene, poco fa non sta riuscendo più. Ma Antonino! Ma chi era? Vannino di Sorso. Vannino di Sorso. Esatto. Manuela, ti hai incendiato il baracchino? Mamma mia, quanto sei scelta male. Che ma cosa c'è? Solo FM questa qua. Non lo so, bu. Perché è FM? E voi sembra, tu non si sembra, non sembra, c'è nulla, tu. Dai, lo attacco dopo il valvolare. E beh, e allora, dove vieni tu? Manuel. E caso strano, non viene a casa tua. E non rompe il malluccio, che adesso si segnala più pio di nuovo. Ehi, ma che tu pensi, fa manco a me? Stava facendo attaccare il microfono all'amico. E infatti, non è da casa sua, avevo ragione io. Oh, ci eravate cascati anche quando, quando Fabio stava parlando da questa postazione e pensavate che si era messo l'antenna. Ah, no. Vabbè, comunque l'abbiamo capito che non era, no, che aveva l'antenna nuova e non era a casa sua. E infatti. Che alla casa tua mi sembra assurdo Riccardi. Tu eri casa di matto, dimmi. Telefono, Quirix. Non dire le bugie. Attacca l'altro adesso. Adesso con che cosa sì? Con che apparecchio stai uscendo adesso? Sono io. Ah, sei di Zezzi. È molto più basso questo, ma col Galaxy stai uscendo. Col Galaxy non sento solo così. Sei di Zezzi. E buco se fa raggio. Te l'ho detto, non si sniffa il Viagra, se no ti cresce il naso. Cioè ci credo, se stavi parlando sino a poco fa col Galaxy, cosa si dice? Eia, eia, vabbè. Di così. Oia! A me non mi vai, Marco. Io ci sono tanti anni in frequenza, non sono un bambino. Cosa è successo che hai passato su me? Ho detto che il Galaxy se l'ha venduto, tu lì, poco fa stavo uscendo col Galaxy. Ma ti era fatto un po'. Sta zitto che io sono nato, prima ha detto. Non era a casa sua però. Non era a casa sua, certo. No, perché stamattina hai fregato anche a me. Manuel, cazzo di sul più del 9, 9 più 10, oggi sei Santiago Zinco, d'ora. Vedi che non parli, che ti hanno sgamato. Se vuoi dall'inizio dove hai fatto tu, o hai piazzato la tenda, o non c'è a casa sua. No. Ma il nostro Fernando rimane. E stamattina mi ha chiesto un controllo della 9 più 10. Ho detto, caspita, stai arrivando un bel forte. Ma detto, non sono a casa, ho messo l'antenna nella ringhiera. Allora era 9 desi, ancora, 10 minuti fa. Ho detto, era 9 e 5. Sicuramente era da Luca. Ma io sto pensando che sia dal suo vicino di casa. E non lo so chi c'è vicino a lui. Vabbè, Manuel, ci sei? Ha detto questo che fa le prove. Chi gliel'ha venduto le vesce? Perché ha detto stava andando alle poste ieri, avanti ieri, a spedire un pacco. Lascialo dire che per lui non ha venduto niente. È innamorato di chi sa apparecchi, se sa vedere sa apparecchi lo va. Io non mi chiamo Gianni. Guarda, gli ho messo la mano sulla spalla, l'ho presimato, quindi lo conosco più delle tasche mie. Sai come lo dico? Ah boh, quello che ha detto è così, poi non lo so. Vabbè, se una affezionata alla radio non la vendono. Se non ce l'ha comprata come questa, se me l'ho comprata non è che la possono vendere. Vabbè, dai. Continuate. Comunque, Manuel, stai arrivando di nuovo basso. Stamattina, quando mi hai chiesto il controllo, stavo arrivando 9 più 10, quindi c'è qualcosa che non fischia, come dice Tonino. Ciao. Non riprendi. Riccardi, riprendi. ciao, ok, ciao. E a riprendo, ciao comunque Claudio. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Io sto così bene a letto, mamma mia. Madre Maggi che mi hanno dato la conferma, altre, fino al 18 di luglio. Sono dato. Se ci va a provare a casa da fare. E la segretaria, non si preoccupi Antonio, che cavolo, guarda che mi hai pagato dalla settimana, noi anticipiamo, pagato il 100% e vado a casa, se il medico del lavoro ha detto così, è così, l'ha fatto anche Luciano, il suo collega, lo so, 2 mesi e lei non sopporta più stare a casa, e cosa ha fatto? Ha giocato tutto, allora non voglio più nulla da fare. E già si trova la cosa da fare, oh yeah. Lo so che è una paranoia se non sai cosa fare, ma basta cercarsela da fare, già si trova. Io c'ho delle cose che sto rimandando addirittura. E poi una cosa, devo fare. Devo pitturarmi la cucina, ma non la giudici una gara. Mi ha la bella sul basso, ci convivi che ti impallami. Come l'ha messo la trappa lì? Oh. Già dici poco di base, perché adesso si è anche più pio pio. Ma non ti cazzate, ma non è che non sono mannate alle mani. Dopo futti qualche domanda ma solo mano a me. Il segnale più forte. E infatti sono detto subito, allora devi mettere l'antenna oppure non c'è casa tua. No, è finita. Allora tu se continui a insistere di dire che è casa tua, mi attacca come era prima a vedere. Turlecco, perché io lo conosco come le mie tasche modificate eccetera eccetera, però sempre Saturlecco era. C'è manco da recuperare, se vuol dire già l'aveva venduto, ma non ti cazzate. Allora, dico perché dici palle, perché se veramente vuoi difendere, me l'avresti detto prima a me. Il gemello. Ma avete prelevato 75 euro, non di più. 75 euro. Allora 50, se troppo 75, e beh. Beh, siamo andati già. Ehia, troppo bene. Avanti Riccardino. Ehia, ehia. Dobbiamo vedere le prove che l'ha finito. Oh yeah. Io Riccardino che ce ne andiamo a vivere, ce ne andiamo. Capito Riccardo? Già ho capito, un attimo, che stavo provando ad attaccare, vabbè, adesso non ce la faccio, lo attacco dopo, se no il filo del valvolare perché si era tagliato in due, chissà chi l'ha tagliato, mia sorella, e il filo dell'alimentazione, infatti adesso stavo cercando di riattaccarlo, ma non ce la faccio, non ce la stavo facendo perché stavo provando con le forbici di elettricità, però non stava, si stava sempre staccando, mi rimaneva sempre qualcosa in mano, lo faccio fare dopo da babbo, che così me lo nastra e me lo sistema. Ma ce l'ha staccato dall'alimentatore? Praticamente c'era il cavetto da dietro che porta alla 220 e lui mi ha tagliato il cavetto a metà dall'apparecchio alla 220. E che pericoloso, non è stato stampa. Quando era attaccato l'ha tagliato. E allora bisogna rifarlo come si deve, cavolo. Ossia si mette un cavo nuovo e buonanotte. Non lo so, perché è un attacco particolare. Bello, fai la toppa, vedrà che video. Sta tagliato, Riccardo. Cosa? Sta tagliato. Ha tagliato il cavo dell'alimentazione del valvolare. La tua sorella? Mia sorella. No. Qui l'avrei punita, sono cose che non si fanno quelle. Sì che lo stacca è un conto. Ma a tagliarlo non va bene. Quanti anni ha ricapito la sorella? 10. E ancora per secondo non capisco, vai, vuol dire, stai imparando che quando è più grande diventerà una bravissima nel cloud. C'è già il dietro dove va tenuta, dai. Gelosa allora. Secondo me è gelosa Riccardì, perché tu c'è le radio lì no. Andiamo le bambole. No, mia sorella voleva che gli portavo una scrivania dentro per farsi il make-up e per questo non gliel'ho portata, infatti me l'ha tagliato. Ma non voglio più parlare di questo perché mi sono già arrabbiato troppo. Ah, scusa, non ti ho neanche sentito, Cla. Cosa saranno? Una decina di valvole forse e un tenco. Cosa darà? Boh, non lo so, l'ho provato poche volte quando mi è arrivato il funzionamento e poi ho usato altre radio e per questo non ho neanche guardato quanto eroga. Come lo ricollego guardo quanto eroga. Ciao, sì. Ma vedi che è un baracchino, tenco, cosa lineare? Lineare? Chi ha detto lineare? Tenco è un lineare, è una radio valvolare, come il Constat 25B. Cos'è il 46T? È quello che c'hai tu, Riccardino? No, è il modello forse inferiore, il Tenco NASA 23VB. 23 canali, vabbè, io avevo il 46T, il 46 canali praticamente, 45 canali, vabbè. È simile al Constat 25B, Claudio, ho capito, quella stazza lì, lo fa 23 canali e 45 canali, dai. L'avevano chiamato 47, cosa allineare, infatti stavo ascoltando. Riprendi Riccardino, riprendi. Eia, no, pensavo che aveva capito che era una radio, no, lineare non ne ho qui. Eia. E tuo padre è sceso a casa, ha messo il motore nuovo, appagappa. Va bene, dai. Speriamo bene che riesca tutto perfettamente. E come mai questa guarnizione della testata è partita? Via. Vabbè, spendi di meno, poi vedi, va a spendere di più. Lo so. Costano tanto quelle lì nuove, però. Ah, io ho amici che hanno macchine grosse, le hanno prese il continente e vanno benissimo. E sono macchine potenti. Dai ragazzi, mi assento, ci sentiamo più tardi, dai. Ciao Torino, ciao Riccardino e Gianni e gli amici che ci sono a ruota, dai. Ma Manuele è andato di nuovo dove era prima l'altra casa. Infatti si è assentato, non stava parlando. Sono andato a chiudere il giro, forse non lo sentiva. È entrato il nuovo segnale che è entrato prima, in casa dell'amico suo, dove è l'occhio. Allora, è andato a portare, sicuramente ci ha fatto mettere qualche microfono, gli ha fatto gli attacchi. Allora. Sì, perché infatti aveva due microfoni e fa capire ai zappariani. Ci aveva l'eco stamattina già. E uno gliela salita. Anche poco fa è uscito con l'eco. E lui non se ne è accorto, ma ce l'aveva. E io ho guardato subito il segnale, che era 9.30 a casa. Ha detto, questo se lo siamo messo l'antenna o non è a casa sua? E lui più subito. Qua era 9 più 10 con l'eco. Vabbè. Ma lo vuoi dire, dopo lo legge, prende in giro a noi a dire che è cosa sua. Sì, vabbè, dai, voleva giocare, dai, sta scherzando. Noi accettiamo tutto. Avanti, Riccardino. Brava Rafa, anche il pomeriggio l'ho sentito che aveva l'eco, gli ho detto, anche prima ce l'avevi l'eco, che non me ne era accorto, e Faraggio mi ha detto anche prima ce l'aveva, poi ci ho pensato bene, non ce l'aveva prima. Sì, c'ha un eco modificato, dai, come tutti i risultati dell'eco. Anche il mio l'apparato ce l'ha l'eco, ma non lo metto mai. Quello del baracchino c'è l'eco del baracchino e più l'eco del microfono. A me voleva darmi due microfoni per il cambio del microfono originale. Vai, sì, mi venite. Io ho fatto tagliare, non ne voglio. Ma dopo lui è furbo, la roba la vuole, la adatta e non te la dà. ma ce n'è avuto male però. Tony poi a posto l'ha messo quella roba là. Una parte sì. Ah, meglio così, dai. Adesso manca solo cosa, manca un pezzettino che vorrebbe arrivare questi giorni, se no la prossima settimana. Comunque, alla prossima dove è tutto qui. Vabbè, dopo che lo fa qua c'è lo spazio. Lo spazio ce l'ho già, è pronto. A casa mia. Ma una cosa a casa tua, che non hai tu, di roba da dare il paio baracchino. Ma io? Oh, mi hai, mi dai tutto il buffere, mi dai, con i baracchini. Ma ce l'ho lo spazio, fotografo se vuoi. No, non ho capito. Tu mi devi dare tutto il mobile tu con i baracchini dentro. Io, se bene, tu. Quelli sono stati fatti ponderatamente, piano piano, ma ho messo quello che volevo io, non quello, le cose così, a minafutto. 48, ma mi pare che tu dovrà pugnare, era bello colorato. Ecco. Ricardino, ripeto. Ehi, riprendo. Bene. Fai girare perché sono Ruggito. Facciamo riprendere meglio la chiusa Ruggito, che lui avrà qualcosa di meglio da dire. Ehi, cappa. Oh Gianni, perché ce l'hai spento? Già. E di cos'è che ci hai spento? Baracchino. No, il baracchino è scappato e è acceso. Ti ho fatto la massa, ce l'hai spento. Ah, sta caricando. Ah, tu ma lo carico che ti ne spento. Sta caricando, è a zero. Anche con me l'attacco c'è che puoi accendere il telefono. No, il mio si è spento proprio, parlando si è spento, quindi è a zero. Ehi, vabbè. Avanti, ricordino. Come si riprende ti avviso. Va bene. Adesso è in coma. In coma. Dai, come mi ascolti, tu lì dammi un controllo Radio Santiago, dai. Che ho alzato il microfono adesso. Infatti non vedo più in alto il microfono. 9.25, 9.30, sì, da 3.0, dai. Cara gara, e da te come arrivo? Che l'ho ruggito. Santiago 9, però sono con l'attrappalatto, col Cobra, non lo so se il segnale è uguale. C'ho praticamente le tacchette che segnano, capito? Non è che sia molto, molto giusto questo qua. Questo è Santiago 9, comunque già va bene. E a Puglia. Riccardo, da te come sto arrivando? Aspetta, stavo per guardare. Smitter, hai finito il passaggio di radio, buono, però il segnale non lo so, rifai un altro passaggio. Il segnale sarà più che buono, guarda, 1, 2, 3, prova. Oh, lo Smitter è avaro oppure tu mi stai arrivando 9.50. Non ce l'ha lo Smitter avaro. Staccate lineare, mi avete interrotto la lavatrice. Era per vedere come andava questo apparato. Ma la radio chiara ai toni di questo apparecchio? Perché c'è qualcosa. Si può, diciamo, pensare. Ehi, questo qui è il microfono che ho fatto io. Da due microfoni vecchi ne ho fatto uno nuovo. Io ho preso quella cornetta, c'è la capsula piccola. Sì, quella lì è buona. Tu li metti quella e va alla grande. Va bene, la capsula va bene, quella del telefono. Vabbè, dai, questo qui ve l'ho fatto ascoltare, per stasera ne attacco un altro. E avanti un altro, adesso che cosa stai usando? Hai detto il Cobra o no? Questo è il Cobra. Gava. Visto che io ho raccontato, Claudio ha raccontato, Tonino, cosa ci racconti tu? Cosa vi racconto? Che sono ancora appoggiato a letto, che ne ho un altro mese stare a casa, che mi sono rotto veramente le scarpe, stare a casa. Se le paro mentissimo. E andiamo a guardare qualcosa di bello. Kappa, facciamo di nuovo riprendere Claudio, il solito, quello che uso sempre, con un finale poco più grosso, capito? Ehi, tutto è nesco. E là, come ti arriva Muros? Ti adesso, Kappa, visto che ci siamo, Claudio, oggi come ti sta arrivando adesso? No, sempre lo stesso è, sempre quello è. Comunque, che ti arriva più forte Tonino? Tonino, stacca la stufa. Come ti arriva, Riccardino? Fai un altro passaggio, hai fatto un passaggio di 5 secondi, eri più veloce della luce, mamma mia. Sono un Kawasaki, dai, guarda Riccardino. 1, 2, 3, prova di modulazione. Stacca la stufa io, che mi stai arrivando fondo scala. Vabbè, dai. Guarda quanto cambia. L'ho staccata, dai. Guarda un po', 1, 2, 3. Prima eri 9.60, adesso sei 9.20. Vabbè, già va bene, così nessuno ci mette la portante, ragazzi. E io, come sta arrivando, chiedo a Ruggito lì a Mulos con questo apparecchio, perché io volevo fare una comparazione tra apparecchi. No, questo è il 3009, dai. va molto bene questo apparecchio, sia ricezione che trasmissione. No, il magnum l'ho lasciato spento ancora, non l'ho ancora acceso, dai. Oh, Tonino. Dimmi tutto. Santiago Basso, vabbè, Santiago 6, 6, 7, e la radio buona, sempre 5. Comunque, Tony, stavi parlando della sorella portante, perché io quando ti arrivo lì, scusa. Prova, vieni avanti. Vengo avanti e vengo dietro, dimmi come sto arrivando alle tue coordinate. 9:30, sei sullo zero proprio. Benissimo, da. Claudio, stai andando bene. Santiago, come ho detto, è 7, però la radio è buona, 5. Sì. Ho capito, no, già sta andando bene, non so, credo, visto che non c'è problema. Se ci ascoltiamo, non c'è bisogno, come dire, non c'è bisogno di mettere 800 watt, anche con questi 50 watt ti ascolto bene. Ma mai non stai usando il 48? Ripeti. Lasciami rispondi, Claudio. A Schiatti. Non ha giù pinza io quando a Schiatti. Ho calcato male il microfono, sono distante. Ho detto, come mai non stai usando il 48? No, no, non c'è bisogno, c'è bisogno. Era una curiosità. Visto che ti appassionato di questo 48, ti sento spesso con questo Sommercamp. Va bene, ma te l'ho detto io quello lo usavo senza lineare, quindi l'avevo portato a 8 watt. Però per usare con lineare lo devi usare a 4 watt. Va bene, va bene. Poi mi date un controllo di radio, come sto andando? Sto andando col DAC. DAC MB più 5. Ho detto, Gianni, l'hai vista la foto del motore della moto? Gianni, è andato già. Gianni, sei addormentato, Cla. Tramaiato, sì. Ciao, Lucia. Adesso non ti ascolto io, anzi, ti ascolto solo io, veramente. Assa, se non ti ascolta nessuno, dove sei? Già l'ascolto anche io. Anche io l'ascolto. Sacchetto, quindi è Sacchetto. Lì è Lucia Sacchetto. Non so dove è Sacchetto, Cla. No. Allora, penso Porto San Nicola, quelle parti là deve andare. Ah, Porto San Nicola. Ah, sì, Sacchetto, ho capito, ho capito. Rientrando allo stadio, Lucia. Non ho capito, no. Uno? Cos'hai detto, Lucia? C'era uno? Se rimane un bel basso, cioè, non lo so. Va bene, va bene. Gianni. Ha detto che c'è qualcuno che ti parla sopra, che non ti ha capito. Ma in questo canale non c'è nessuno. E forse vicino a lui. Io non ne registro portante. Ciao Luciano, mi ascolti? Cappa, dove sei diretto? A Sassari? Ciao Luciano, mi ascolti? Vabbè, rientra Luciano, rientra, dai. Comunque già stai arrivando adesso, poco fa ti ho sentito un po' più basso, 5,7, 5,8, adesso sì, 5,9, dai. Fammi sentire questo 48 qua, vedere se c'è differenza dall'altra. Questa è troppo amplificata per me, sei un po' morsicchiato di radio, l'altra era molto più chiara. E adesso va bene, è molto forte. 9 più 20, radio 5 stai arrivando. Sì. No, adesso ho guardato bene lo smitter qua del baracchino, sei oltre il più del 30, dai. Oltre il più del sul 3, sì, praticamente, quasi 9 più 30, sì. Va bene, va bene. Riprendi Tony. Andò bene, sì, mi piaceva più la colore, ce l'ho però prima, è Claudio. Questa rimane più diversa, leggermente diversa. Comunque ce l'ho bene lo stesso, lo parlavo. Andò bene. Riccardino, ripeto. Sì, va, confermo, va meglio il Sommercamp rispetto a questo, però ti ascoltiamo sempre bene, Cla. Arrivate un po' più cicci. Non passi già, stavi dicendo già. No, dai, niente. Cara, va bene. Oh, io non ho arrugginito, per me qua vi più bene che con l'altro apparato. La sessione non va bene col Mitra. No, con la 48, stai arrivando abbastanza bene qua. È un bel apparecchio quello lì. Ma il microfono, che microfono stai usando? Questo adesso le ha abbassato di watt l'Alan 48. Fare una fotografia col cellulare, ce l'hai sempre nel cellulare, quando vuoi lo controlli e fai prima, perché queste cartucce magari le perdi e non si trovano più, invece nel cellulare ce l'hai e lo vedi sempre. Avanti A chi tocca? A Riccardi? Ma io non ero Robertino, Giacomino, e ce ne ho un bel nome. Adesso ti sei ricordato il mio nome. Comunque sì, claro, è meglio se te lo fai sul telefono, perché anch'io mi cercavo sempre di ricordarmi le regolazioni del Turner, di quello che ho, e me lo scrivo sempre su un foglio, e poi come hai detto Gianni, il foglio lo perdevo. Mi sono fatto una foto, adesso non ho più problemi. Gianni, dimmi. Ricky, mica ti ho sentito che stavi parlando su di me, mi sa. Magato. No, non stavo parlando su di te, Ricca. No, allora mi sono confusa, scusate. Umilmente scusa. Ho detto, Claudio, io con la RAN 48, adesso sto andando con la RAN 48, gemello del tuo, no? Sai che ne avevo due. Quindi l'MB più 5 io ce l'ho, i tuni ce li ho a 2 e il microfono ce l'ho a 6. Ma è troppo alto, devi abbassare tu allora. Così va meglio, sennò sei troppo compresso, capito? Troppo compresso, non mi ricordo se lì aveva tirato anche l'LC buonanotte, Gigi Vulcano, perché non l'aveva fatto lui, capito? Però è normale, solo regolazioni di trim l'ha fatto, per quello che è molto più forte magari di questo, non lo so, vabbè, comunque lascialo qui, già va bene. Ho detto, Gianni, l'hai vista la foto del motore della moto? Ah, vabbè, provata. Ma visto c'è. Davvero? E beh, sono quasi 20-25 cavalli in più già. Ma nuova l'hai presa? Sì, nuova, nuova. ER è targata. ER. Nuova di fabbrica. KK. E vanno a tirare, sai, a Vacchi, è rodaggio ancora lui. No, domani domenica ci hanno invitato Alghero a un motoraduno, però un motoraduno leggero così. L'Alghero andiamo sino alla Speranza, poi entriamo a Bosa, ritorniamo indietro e poi prendiamo tutti all'Alghero, capito? E le curve di Bosa, dai, ho capito. Occhio lì, è un po' pericoloso, cioè sono curve di colpo, cate nascoste. Vabbè, dai, comunque, basta andare piano. Gli andali e Dio, gli arrivano a te, se non c'è un problema. Non ce n'è problema, dai, va bene, va bene. Riprendi Tony, poi avevo chiesto una cosa, a cazzo mi sono dimenticato, mi sto rincoglionendo, Tony, non mi ricordo cosa ti dovevo chiedere, vabbè. Vabbè, quando te lo ricordi te lo dici, oppure se non ci sono le frequenze le mandi su WhatsApp, non c'è problema, grazie. Sì, mi lamento, no, era una cosa di lavoro, una domanda lavorativa, capito? Niente di che, però non mi metto già di dovevi domandare. Ok, ma io mi devo sentare 5 minuti perché mi devo stampare il foglio che mi hanno mandato sulla posta elettronica, la dottoressa, il bigotto. Me la passo sulla stampante e così lo scrivo nella cassetta. Riprendi già. Ehi, comunque c'è un bene per il microfono di cosa di... come si chiama, di chiodo arrugginito, deve essere messo una capsula KP2 di quelle di qualche microfono a spiccamendocci. Guarda, c'ho il manuale tuo e poi un regalo che ti sto portando per quella radio lì, per quella RAN 48, perché ne ho due, uno per me e uno per te, ed è nella scrivania qua, solo che adesso vediamo se riesco a liberarmi. Già ci salgo per fine settimana, dai, per fine settimana, intanto l'appuntamento ce l'ho alle 11 domenica mattina, quindi può darsi pure che prima mattinata ci faccia un salto e te lo porto quel manuale, così mi ritiro quel commutatore. Ma sono propenso a portare la radio e farmelo fare da tuo padre, perché io ho visto come cazzo è questo commutatore. È un bel edificio, ci sono da attaccare, io non è che ne abbia molta voglia, mi sa che porto la radio, se non me la graffi, perché non c'è un graffio, l'ho tutta lucidata anche oggi, con lo spray, tutto, tolto tutte le manopoline, ma le ho tutte lavate, erano già pulite, però le ho fatte ancora più lucide. Mi sa che faccio così, capito? Tanto non la gliela lascio, poi quando è pronta passamela a prendere. Va bene, va bene. Sì, ma è nuovo questo commutatore, però lui mi voleva dare quello più nuovo, e allora glielo cambiamo e mettiamo il commutatore nuovo, dai. Datemi un attimo che vado a prendere un altro apparato. Vai a prendere un altro barattolo. Va a prendere un altro apparato, apparato. Mamma mia, questo apparati che ci avrete. Io ho la carta d'apparati, capito? Carta d'apparati, c'ho apparati non ne ho io c'ho baracchini. Gappa. No, quel polmare è favoloso, eh. Molto, molto bello, nuovo. Come lo vedi, l'ho tutto pulito, bello. È nuovo e poi esce molto, molto bene. Io adesso ho commutato, sto usando quello. Vabbè, non c'è venuta la modulazione, è sempre uguale. Vero, Ricca? No, va sempre bene. È sempre quello, i microfoni sono sempre tutti uguali. Va bene, dai. Beh, io vi saluto io. Due chiacchiere me le sono fatte, sto baracchino già l'abbiamo fatto scaldare. Divertitevela e ci aggiorniamo. Ti faccio sapere qua, ok? Vediamo se ce la faccio domenica mattina prima di andare all'Alghero già ci faccio un salto, ok? Ciao Claudio, torre di controllo e alle prossime spero che non ci siano aspettature alle portanti, che tu te ne vai, come dire, in protezione, che non entri, stai sempre in ascolto, perché almeno ci facciamo una chiacchierata, capito? E comunque ti saluto e niente, ti metto il cambio e poi se c'è ancora Gianni per i saluti a Claudio. Ehi, Ricca, non mi piace, a me, se devo fare due chiacchiere devo fare e basta, no? Queste portanti a me mi danno fastidio, quindi preferisco rimanere in quel Rix, capito? Va bene, dai, comunque già c'ho il baracchino sempre attaccato, quindi non c'è ne problema. Ci sentiamo, buona serata a tutti, ciao. Ciao, ciao, Cla, cioè non c'è rimasto per nessuno, Gianni, ci sei ancora? Aspetta, Claudio, mi stanno chiamando. Attenzione canale 10, attenzione su canale 10, attenzione su canale 10, c'è qualcuno cambia. Attenzione, ho sentito una portante ma non la modulazione cambia. Ciao Lupo Grigio. Ciao, chi sei? Interrogativo. Ciao Franco, come stai? Franco, bene, bene, benissimo, te? Bene, bene, bene. Ti ascolto bene anche, dove sei? Molto in alto? No, sì, al solito terrazzo. Senti, ti volevo dire, per quell'antenna io ho problemi a montare un fabbione.